Perché l'amour la merde, n'est pas possible avec nous. La deux nuits, la deux nuits, la deux nuits. Les bousses des coques à tailler des bouffitas. C'était la scade des niais qui notait la carimica. La pipa des vieux pocs sont toutes sclères. La pipi des terres la mattina se manca. Il cerchio te chiama, te lascia la fido. La gabbia allerta, la via della bamba. Bianca unghia d'assaggio col dito, il senso del sole che scende la fare sfuggito. Te parte l'embolo di rabbia per i diti di roba. La pugna la serpipa se scala la fui per dopo per manca. Dipende quanta ne hai se in up, se no te ne vai down. Elle n'est pas possible avec nous, la deux nuits, la deux nuits, la deux nuits. Non si scontra la pena per il personale, ma se vai oltre vai a penale, poi li devi appiccicati in Junker, poi li viola rotolati da lì, sono capi per chi non ha nulla. Fiume dei porco, la giù noi dei mossa, loro belli come sempre, non manca come mai. Vanno dei bambarota 400 al gramo, noi di roba mista da ebole da fanno. Sono storie, storie di strada, più di Gucci e Prada. Ci sarebbero nulla dei niti, nulla di nada. Ci sarebbero storie da stare zitto di nada. Vanno fuori per una luna che sa di bianca come la pelle dei ragazzi. Di una raglia poi l'altra, perché nel futuro di noi altri c'è nada. Punta dei cervelli ma fatti, non degli intelletti. E le ne possible avec nous là, tu dois nous.